che il boia, il boia. Mezzo Pinocchio. Tutto sistemata la barca. Sì, abbiamo tolto tutto il motore, tutto quanto. Altro più di quasi 2 ore eravamo lì. E il timone messo là? Ne abbiamo tolto tutto perché... Aspetta. Diciamo che era tutto quanto... Cazzo, cosa... Tutto ossidato. Tutto messo male da quel motore, Giuse? Sì, tutto messo male, abbiamo dovuto distaccare tutto, rompere. Sì, figurati, se sei 6 anni che non lo tocca quel motore, figurati che condizioni era. E beh, Gianca. Ehi, e dunque, ma siamo andati che erano le 10 e... Ah, meglio così. Giuseppe, lo senti? Mezzogiorno e mezzo. Ma lo sento flattero. Passo, lo senti. Giuseppe, mettiti in una posizione buona. Guarda, vedere. Mi senti? Ha detto Giancarlo di salire sul traliccio dell'Enel. Non ho capito. Mi ha detto Giancarlo di salire nel traliccio dell'Enel. E dire a Giancarlo... Se non è sano, mi deve dare quello di dietro. Cazzo si verrebbe. Se la sua faccia rimane secco. Ma perché? Che c'è? A casa di Giancarlo sì. Ah, tutto sono quelle. Giancarlo arriva. Quindi Giuseppe, avete cambiato il motore, spaccato tutto, è rimesso il motore nuovo, ma il timone c'è almeno? No, non c'è, no, lo deve fare, cazzo, gliela stanno tutta quanta rovinando quella barca, hai capito? In che senso rovinando? Perché no, a forza di piare i colpi? A forza di, quando attraccano le altre barche, sai, quando c'è mareggiata, cazzo, va a sbattere addosso quella di Nico, cazzo. Beh, sono attaccata all'altra, figurati che... Meno male che non sono portata via come ti ha levata Guido. Si hanno preso la barca e l'hanno affondata lì a Balai. Appunto perciò, io pensavo fosse quella. No, quello era un'altra cosa, evidentemente quello ha fatto qualcosa a qualcuno. Gli hanno preso la barca e gli hanno affondata. Ma già la recupera. La fa recuperare e poi si vedrà ciò che hanno combinato, perché affondarla così qualche buco gli hanno fatto senz'altro. E l'ha recuperata la finanza. E si paga il messaggio, adesso indagheranno a vedere chi ce l'ha con lui, evidentemente ha sgarrato con qualcuno. Deve essere che non l'ha pagato, ha ribigliato, gli hanno portato via la barca e gli hanno affondata. E vabbè, tanto dovremmo portare il motore, quello grosso, o il grosso dobbiamo portare giù per impiantarlo. Ma sempre il timone ci vuole, senza timone dove vai? A meno a farsi una 6-7 giorni di ferie a mettere in moto quella barca, se no, quando va a mettere in moto rimane lì all'asinale a fermo lui. Adesso vediamo. C'è da fare tutta, anche dentro c'è da fare, c'è quanto le manutenzioni, c'è entrata acqua. La barca ha bisogno di manutenzione ogni anno, no? La lasci lì, ce l'hai 7 anni buttata lì e neanche ci vai a controllare, ci vai neanche a controllarla. O da sistemi te la vendi, intanto non se ne fa nulla, si compra un po' di soldi. Secondo me intanto non se ne va tenuta di quella barca, non se ne fa proprio niente. L'ha messa in vendita, però nessuno è interessato. Per forza non è interessato nessuno, se la barca non hai visto che gli manca la vernice, gli manca al legno. Il problema è quello sotto, vuole portata su, riverniciata, sistemata bene e poi venduta. L'unico modo è quello, se vuole fare un po' di soldi. La sistema bene dentro, gli mette il lavandino nuovo, gli mette gli accessori nuovi, eccetera eccetera, e vedrà che la barca la vende. Non sarà molto, penso 10.000 euro la farà fuori. giustamente. Adesso vediamo quando ha intenzione lui di scendere. Intanto ci andrò anch'io a dargli un colpo di mano. Beh, certo, da solo non può fare nulla a me. Poi quella barca già si muove poco, già. Devi tenere anche attento quando metti il piede, se non ci si direttamente a mollo. Non fai altro che metterti un po' di detersivo e ti lavi. Già che stamattina, cazzo, come stavamo passando le barche, cazzo, stava ondeggiando, ho detto, va, mi nomi, cazzo, il mare male stava avendo. Perché non sei abituato, né tu né io, non per l'altro. Avanti, Gianca. Gianca, ma niente, sì. Ah, già mangia, poi quando è finito al limite chiama, poi già siamo qua. Ok, ma non è più l'autostato, non mangiamo. Anzi, eia. Ma perché c'ha anche il terreno? Rasso, cazzo. E c'è un giorno che c'era il PMF, c'ha il marito e lui, c'ha, o Giuseppe. C'ha uguale a quello che c'ho io. Ah, va bene. Già va bene. Ha detto che sta ancora mangiando, dice che non riesce a togliersi dal tavolo perché sta mangiando un bel, adesso almeno ingrassa un pochettino. Povera bestia, anzi di che non le voglia tra me. Se non lo dico questa cosa. Ah, quello già digerisce bene. Curare tu, e devo andare dopo a prendere il gasolio. Deve andare a testone a piare il gasolio. Figa, apre le 3:30, che ora è? Sì. Sono le 3:15. Sì, vabbè, sono 10 minuti. Sparo e vado. Tanto devi andare la cosa da testoni, devi andare. Sì, da testoni va. Ma il gasolio per, non per la barca, no, per le, il coso. Per il riscaldamento. Per la stufa. Ah, c'è vero, c'è vero. Oggi c'è più freschetto, ma ieri c'era più caldo a casa. Un giorno fa caldo, un giorno fa freddo, non si capisce più una fanculo questa stagione. Ha cambiato il tempo. Ha cambiato, sì, il tempo ha cambiato. Stasera, se me ne ricordo, dicendo qualcosa a tuo fratello, così se lo metto nella barca. Quel miscelatore che ho staccato dal lavandino, che è nuovo, deve solamente togliere le cannette e mettergliele nuove. A meno che non facciamo il fatto io, prende quello del bidet e ci mette quello in barca, 12 euro, e c'ha l'attacco del coso, normale. Ho capito, ho capito. Ciao Mario, cazzo, 5 litri di vino bianco, è meglio che ci metto l'acqua vita e almeno va, il motore accende. C'è un grillo. Chi è, Marco Condo? No, Mario, e non è Marco. Ah, Mario, il pidopido? Eia, sta aspettando che a fare festa. Ma giocate nei numeri all'otto, Mario, nel caso moglie tuo fratello. Mario. Fatti dare i numeri, ce li giochiamo assieme, Antonetto. Sta aspettando che moglie fratello, adesso quando muore ci facciamo dare i cosi, il giorno, l'ora, che è entrato, il giorno, l'ora che è morto. E poi li giochiamo, lì a coso, a cicci. Ma l'hai telefonata l'assistente sociale, Antonio? No, stavo facendo i piatti stamattina e altra roba, mi è scappato di mente. Vabbè, intanto ci devo scendere domani mattina, quindi non è un problema quello. Domani ci devo andare. Io stamattina sono passato lì alla CISL, lì dietro i pompieri, ma c'erano più di cazzo di 30 persone e me ne sono fuggito. Sì, Giuseppe, se vai di mattina non trovi un bel di gente. Devi andare verso le 4, 3:30 a 4, per farti i fogliolise lì dietro i pompieri. Ah, ma io volevo ritirare, hai capito? Tutto quanto, ho segnato tutto. Eia. Se avessi voluto ritirarlo, ti conviene andare stasera verso le 4, già non c'è nessuno. Per lo meno mi sembra che apre anche di sera, eh. Anche ci provo a andare domani, non lo so. No. Sera mi deve telefonare Nico a darmi la risposta se devo aprire il circolo o no. Ho capito, Giuseppe. No, Mario, non sono andato alle prossime mattina. Ci vado domani mattina, così. Comunque ho già compilato quel foglio della giacenza. La comunicata glielo consegno. Allora, ecco. Oh, iaia. Ia. Hai capito? Non so se devo aprire domani mattina il circolo. Ehi, Giuseppe, se devi aprire domani mattina non sei contento. Dammelo qualcosa, ti incassi. Adesso vediamo. Vediamo, se non chiamano a lui al lavoro, devo aprire io il circolo. E lì sarò dalle 9, 9 e mezzo, dai. Ehi, vabbè, intanto io devo andare di là. Poi al limite ci vediamo di là. Non c'è problema. Avanti Mario, cosa hai detto Mario? Dici che lui è un grandissimo Pinocchio. Magari me l'avessi bevuto tutto, ce n'è ancora, ehi. L'ho usato anche per fare il pollo stamattina. Dici che mi deve far conoscere la cognata. No, ho fatto il pollo, ci ho messo il vino. Vino bianco, è uscito di lusso, uscito. Hai capito, Antonello? Mario, aspetta, dimmi Giuseppe. Dici che mi deve far conoscere la cognata, che io sono disposto a pagare anche 20 euro. Digli che cosa, Giuseppe? Ho detto a farmi conoscere la cognata. Ah, Mario, fai conoscere la tua cognata a Giuseppe che la vuole conoscere. Ha detto che la conoscono tutti a Sassa di Giuseppe. Vabbè, io non la conosco. Ha detto che lui, Giuseppe, Mario non la conosce, quindi digli dove frequenta. Ha detto alle case popolari della Teloce, Giuseppe. Ecco, non so molto io. Ma la mano non è Coso Vicco, di solito, la zona lì è pieno. Coso Vicco, Coso Vito di Emanuele, via San Donato, via delle Muraglie. Vabbè dai, ci sentiamo, dai, ci vediamo più tardi, dai, ciao ciao. Ehi, ciao Giuseppe, ci sentiamo. A dopo. Cazzo, c'è 70 anni già. Giuseppe, è meglio che non ci va, c'ha 70 anni lì. Cazzo, 70 anni già. Io pensavo che era più giovane. Quindi c'ha... E che noi? 50... No, una cosa che... 50-60 vabbè. Tutti di che anno sei? 54. Mario. Forse 54-56. Nel 60 sei, quindi c'è 70, eh? Sicuro, c'è 50 anni. Cosa? Sagoa? Ti saresti voluto 60enne? Allora, visto, già va bene. Se avessi avuto 60 anni, stai tranquillo, non sarei stato mai in pensione con la legge Fornero. Sareste solo lì, l'avresti ammazzata. Sicuro. No, già a casa, non ti preoccupare. Non ero nessun altro posto ieri sera. L'altro giorno sono stato al centro storico, non gli hanno venduto una cosa, a Romano. 15 euro, con rullino, c'aveva anche flash. Una macchina fotografica con orologio della... non mi ricordo che marca era. Tutte quelle dovresti averne tre, che mi ricordi. E vabbè, cosa la usi a fare? Per fare fotografie giù a Santa Maria? E allora lì che non si usano più a rullino. Ormai sono tutti digitali, c'è il dispetto, piccolino. E io ho la stella di memoria, quello che è. Quindi già funziona. Aspetta un attimino che mi stanno chiamando. Miau. Miau, miau, miau. Cufu, cufu. Nessuno. Marrazzo. Non c'è più nessuno. Ciao Antone. Tutti sono. Tutti morti sono, grazie. Ieri erano morti, oggi sono più morti. Tutti a Santo Maro si sono parati. Figurati. Cro. Domenica gli porto un crisantemo, facciamo il giro, portiamo i crisantemi. Il giro delle sette chiese facciamo. Ehi, e mettiamo un crisantemo per uno. Facciamo così allora. Adesso voglio provare un'antenna di un VHF, di quei VEU, della standard. Vediamo se... Astecchiamo confortanti, vediamo se mi secca. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi senti? Graziano? Graziano, mi senti? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prova, basso basso, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, ma basso e disturbato, ti sento. Aspetta che attacco la antenna, la sto originale, eh. Basso e disturbato. Guarda questa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso si confonde, riprova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, insomma. E beh, ho portato il retro a casa, però questa antenna è molto più corta. Grossa come un coso, ma è corta, fa V e U. Così ti sento bene, però c'è l'altra antenna. Eh beh, logico. Ma c'è la stessa lunghezza, solo che è più grossa questa. Però esce disturbata, ti porti appresso rumori, tipo tutto così. Beh, entro a casa, cosa vuoi di più? È logico che mi porti rumori appresso. Questa invece è bella limpida, bella pulita, rumori non ne hanno. E già lo credo, con quella esterna sono. Ah no, io con quella interna, a me come mi senti? Con l'antennino suo sono. Quella alta 15 centimetri, un pezzo di stilo questo. Segnale 7. Questa con rispetto a quella di prima è fine, è lunga 15 centimetri, da. E quella ce l'ho anch'io, quella antenna lunga, quella cinese. Ce l'ho anch'io, ce l'ho. Ma questa era già abbinata a me alla radio, al GT, io c'ho il GT3, c'ho. Ah, ho capito. Andate, no, io sto provando quello dello standard, quello è VEU. Non era cable, è standard di marca, sono sbagliato io. L'ho guardato adesso. E stavo provando se usciva, già esce, comunque. Quindi volendo li posso mettere allo standard quella fine fine di antenna. E dovrebbe pompare il doppio. Ecco. Quel VEUME, famoso che ti ho detto, quello che è portatile. E c'è il doppio display, uno a un fianco e uno all'altro. C'è le doppie frequenze. Che può fare anche la transponder. E che funziona anche con l'alimentatore, quello. Esatto, sì. E proprio a cambiare l'antenna. No, non stavo usando quel portatile lì, stavo usando l'altro, stavo usando. A questo devo agganciargli l'alimentatore e fargli fare le prove di questi giorni. Adesso l'alimentatore è agganciato all'Alan 67. Sto cercando di ripararlo se ce la faccio. C'ha problemi di coso, di alta frequenza, non riesco a sento come se fosse fuori e non riesco a capire cosa diavolo sia, eppure il finale audio è a posto. Sarà pure frequenza. Magari, no, ma il quarto non può essere, se no non mi avrebbe dato manco la trasmissione, quindi il quarto e il PLL non c'entra niente. C'è qualche altra cosa, c'è. Per certi lavoretti devi avere almeno la strumentazione adatta, tipo come ce li hanno quelli professionali, da. C'hanno gli strumenti, lo mettono nello strumento e ti dice dove il danno, tipo le macchine adesso, l'attaccano alla centralina e ti dice subito un euro danno. Esatto, se mi manca più che altro gli strumenti adatti, così non puoi fare niente. Gliela la porto a un amico mio e vediamo un po' se si può recuperare, si recupera, se no lo userà per pezzi, altro non posso fare, io miracoli non lo posso fare. Tanto già che gli ho fatto avere almeno l'audio adesso c'è, prima manco l'audio c'era. E tu non te lo puoi comprare questo strumento, un bel costa. E così se non ti perdi un sacco di lavoro. Molto costa questo strumento per controllare da che cosa dipende. E abbastanza costa. Ci vuole il direttore di segnale, l'oscilloscopio ci vuole, e quindi non mi basta 900 euro. Quanto costa sulle 100 euro? 900. Vabbè, il sacrificio lo fai, però cazzo, con la strumentazione a voglia te li recuperi i soldi. Non ho capito, Antonio. Magari te lo pigli a pagare a poco se te lo danno. Cazzo, però la strumentazione ci vuole. E se non ti mangi ti becchi di un sacco di travagli. Cazzo, così non fai un cazzo, non fai. E come che io, quando mi sono con busta a fare un brabigamuro, domandavo la roba all'altro, ma per la bugia domandavo una busta, e quando mi scegliano altri travagli, invece mano a mano che faccio un po' lavori, una volta mi ho preso la macchinetta dei mattoni, una volta la mola grande, una volta la mola piccola, e così via. E poi adesso che c'ho tutta la strumentazione, tutti gli attrezzi, non ho più chiesto niente. Ah, ce la faccio a spendere 900 euro per fare un barattino ogni anno, a parte che soldi non ne ha questo, quindi lo sto facendo tempo perso. Ehi, vabbè, ma se vai la strumentazione anche il lavoro già ti aumenta, perché molti lavori tu magari li rifiuti perché non c'è proprio la strumentazione adatta, o no? Sì, mi la butta sempre, quando ne ho voglia di farmi qualche barattino me lo faccio, così tanto per l'amicizia, faccio pagare solo il lavoro che faccio e boh. Non me la fotti nulla, capito? Se funziona bene sono di ritorno e se la biglia in Napoli. Lo userà per pezzi, per qualche altro baracchino che si comprerà in seguito. Tanto i finali sono buoni, sono nuovi, li può recuperare, i finali audio lo stesso, il commutatore del canale altrettanto, poi il PLL lo stesso, quindi se magari trovo un altro baracchino che ha qualche problema, ho fatto che togliere da qui e mettere di là. E anche così si può fare, per recuperare qualcosa, vabbè. Però se c'era la possibilità che si buia questa con quella strumentazione, eri a posto. Perché magari se andi da un altro, magari ti rubassi una busta, te lo guarda e ti dice da cos'è, cosa non è. Ma se ti capita di un'altra busta, torna la domanda di mamma, no? Quello è il capo. Dunque... vai a perderti il lavoro. Io non perdo niente. Io non perdo niente. Non sto facendo peccato a tempo perso, perché non è che me ne freghi tanto, già lo sai. Io ho di dopo. Uiuia. E vabbè. Già è bello fare quel lavoro, se ne sai. Io avevo un amico che è manno, più manno di me, non so come così è vivo, che campava con questi lavori, però aveva un piccolo laboratorio e gli strumenti mi davi a tutti. E ha campato per il suo travaglio, si rivasiva a travagli, era sempre pieno di travaglio, televisori, radio, stereo, e cose che non fa. Era sempre indaffarato. Io ho lavorato, guardate, cosa io, nei lavoratori, mi ha giocato lo guru, ma che cosa, poi magari aprivo lo stereo io, ci mettevo le mani io, dopo due giorni pigliavo e ci metteva le mani un altro, e quindi magari controllavi e ti trovavi di fili staccati, e come fai a sapere dove erano agganciati, e quindi non sai quanti stereo ci aveva dovuto restituire. Anzi, a parte quella volta si è allagato tutto il laboratorio, c'era un po' di stereo lampati che tutti ci hanno dovuto buttare, c'era almeno una sessantina, che ti servono belli radioni, tutto si è lampato che. E allora vi la via in cantina e sono lavorato. No, non era in cantina, era un locale grande. Sopra si era spaccato un tubo dell'acqua e si era, in una maniera, ha trovato tutto il laboratorio allagato. tutto ci ha buttato. C'erano pochi di televisori, tutti in fila, serio. Quanti ne volevi ce n'era? Non tirava nulla, eh. Un giorno ho chiesto per là un videogiochi per giocarsi mia sorella, gli ho detto che è piccolina. No, non te lo posso dare, me l'ha dato scappa, devo restituirglielo, capito? Invece perdeva lui e la lui magari. Come è successo, ha preso e si era buttati a costruire altri. Non mi ha dato mai nulla, perché era un cane morto, solo quanti baracchini ci aveva. Buttati 548 SIX, ci aveva degli apparecchi, uno tedesco che andava in FM, solamente in FM, poi ce ne avevo altri VHF che avevo riparato io. Oh, di lampada in che vi lavoratori, adesso non so che fine abbiamo fatto, non ci sono più andato, io penso che il figlio adesso come è morto, aveva preso e abbia fatto tutto un pacco, ci ha buttato via tutto. E chi sa poco ma e così sono tutti principali. Una volta non mi ricordo cosa gli avevo chiesto al mio principale per campagna. E mi ha detto, no, quello mi serve così e colà. Due annetti da voi mi ha detto a pulire il capannone e mi ha detto a lampasse tutti, pure quello che gli avevo chiesto io. Glielo ho chiesto, no, buttalo. E mi si era fatto lampa, ha preferito buttarcelo per danno, quell'imbecille. Sì, ma è così, non te lo danno, capito, ma preferisco buttarcelo e datela a te, per dire, il discorso è quello lì. Sì, tutta merda, intanto quando muri negli arremari giù, tutti vivi, non se si buttano da nessuno, dunque. Ah beh, quello sì, mi sembra il film che ho visto ieri, che c'era una che stava morendo nel letto, e l'altra piena di gioielli, e non ha voluto dare niente all'ospedale, ai parenti. No, sono ancora viva, questa è roba mia, questa, non do niente, e quello le faccio, ma cosa te ne fai, nessuno mica te li puoi portare, dagli a noi, e lì, no. Intanto quando è morta se la le pigliassero, ma stessa, ce n'è gente strana, per carità, e già ne conosco parecchia io, gente, secchi in culo. Pure magari non ne fanno niente, a te ti serve, preferiscono dirti, loro devo usare, oppure mi serve, e magari tu l'hai visto anni e anni cittadini, però non te ne danno. Io lo so, lo so di là a me. C'era poca roba lampata, ma roba che non usava, mi dire cavo, coso. Una gamba pure ci aveva, microfoni, mai mi ha voluto dare nulla, proprio un cazzo mi ha dato. Ha detto, pigliati del culo, tu cosa, già me l'ha comprato la roba. E così ho fatto. Ma con telefonino a cordo si mi ha dato, poi un giorno ha preso e ci ha messo tutto in garage, c'aveva tutti i telefoni a cordo, quando è morto ha preso, ce li ho tutti conservati io, li ho tutti regalati, se ne ho uno, tutti gli altri li ho tutti dati. E cosa ne fa? Io della cosa che non uso la do, la regalo. L'altro giorno a un'amica di mia figlia gli ho detto, te lo vuoi questo, un DVD nuovo. Dice, grazie a te, mica funziona, è nuovo. E io lo vedo che è nuovo. Contenta, non ne aveva niente. Quando è arrivata a casa sua se l'ha attaccato, mi ha chiamato e funziona benissimo, si è detto che è nuovo. Sente cosa me ne va a dire, una gioia fedura, va? Fatini lo 30 rubli, ma cosa, te figlia di le portatissime. Io la cosa che non la do, però la do, cosa me ne vuoi? E io ho fatto lo stesso, la roba che non la do però prendo la do, non me ne fai, a costo di buttarcela, tanto quando vai con i becci nella parità non ti dà neanche una lira, a un certo punto preferisco fare un favore a un amico e basta. E l'altro giorno lo stesso, va via dei quadretti di casa, nuovi con la cornice e tutto, in bola, un po' all'ambasso, un po' all'acqua, cazzo, l'ha detto, ma Allora chiedo a mamma tua se li vuole questi quadri, chi te? Se li appende in casa, nell'ingresso, dove li piace, e te sono venuti, ti piace in mezzo ai figli, e le li ho regalati, 6 o 7 erano, di varie misure. Te poi ti ha detto, dici te, quest'altro non me ne posso nulla, gli avvilaggio li quadri appiccati. Per tenerli così cosa? Li ho dati e buoni. Ma ci ha fatto, ma a te si chissà. Lì mi segna tutti appesi, mamma, e ha fatto voi. Ha fatto bene, sì. Almeno li ha utilizzati lì, tanto se sono a buttarli, è un peccato. No, a buttarli no, io non ce ne butto roba, se è buona, preferisco darla. Prima la bruciavo da che si imbecille, fa due citti, ma va fanco. Ma con il tempo che figli andai chi già, si rado via a baidare, a me baria, prendere dei bambusi dei bambini, 10 euro, 5 euro, ma non stai in niente. E sono andato io un giorno, ho detto no, io di questa porcheria non ne voglio mai risposta. Tutta roba vecchia. Però se la vuoi lasciare qua, mi ha detto lasciala. Ho detto fai una cosa, pigliatela in culo, gli ho detto, già me la porto a casa la roba, che minchia, ho detto. Preferisco regalarla che l'hai detto, che buttarla così. E così ho fatto. E così aveva detto un giorno a me, gli ho detto, no, se vuoi lasciartela mi dai subito, però quello che mi hai offerto tu, no, non ti rilascio. No, no, se lo vuoi così, se non mi lascia lì, sì, sì. Dammi, stai buono, se ti mancano, se vi scendi dai divi, mi sono ricascioletti vedano, vicino a città mercata, già mette stai lampato, busse quanto c'era, te, ma te non tieni lungo, stai tutta la mondezza. Hai fatto bene, tanto poi gli appassano i rumini, gli appassano i rumini, allora, il cazzo dei rumini comprano tutto, mi è notato, vanno da vento. E di gasolina, addirittura ho visto anche gente che porta roba l'onfi a me, chi ci aspetta c'è gente, dopo glielo dai, hai capito? Vanno nei cantieri, fai una roba, poi gliela portano a lui. Già lo so, mica l'ho visto io, ho visto due tipi di portotorre che avevano una strumentazione di una barca nuova di zecca, non so con quante di nacco usava. Era quello che serve, mi sembra, a scandagliare. Figurati, faria un televisore con tutta la strumentazione, fili, filetti, cioè, ma nuovo. E prima si è mandato a me, e mi sono rimasti lì via, poi tenni, cosa vedi, cosa non vedi, era tutto il barco. Fresco, l'ha detto, chi si dice la legge che l'ha appena fatto, fresco, appena andrà in città. Mi pare che ha dato 50 euro, ma magari quell'affare lì costa un bel po' di soldi. Ecco scandaglio, meno di 800 euro non lo paghi. Figurati, se l'ha fatto lo sgombro, se l'ha nuovo, cazzo ha detto tu, ma chi si chiama? Chi ti ne aveva appena andranci due facce di dossici? E li ho notati anch'io un paio l'altra volta, una sono andato. Sono andato con Mario e gli hanno portato roba di cantiere, hai capito? Mole, trapani, c'erano dei demolitori. La roba dei cantieri, ci aspetta che c'è gente, poi parliamo noi con loro, con quello là, mi ha detto ci parlo io. Tanto giri, tu mi la roba trancita, E già ne piglia la roba in trancita, non ne ha tutti nulla. E di la piglia, tirate due citi, io se la vendono ma stessa, non comprendo. E io lo so già che la vendo lo stesso. No, è macro, napoletano, hai visto tu, l'altra volta ho visto le palette a un euro. Deve essere che ha fallito qualche negozio e ha preso tutto a blocco. Già l'avevo visto, c'era una che prendeva tutto a un euro. Già lo so, una volta che aveva i documenti, una volta, nome, cognome, era fatto colpa della catenzaggio faceva. insomma con quella che lei più. Oh, a me non me ne ha mai chiesto, pure te l'ho portato di roba quello scemo, il primo periodo, anche quando era dall'altra parte, tutta roba che avevo in garage, in campagna, roba che non mi serviva, se la buttavo da insomma. Ha chiesto Portobello, secondo cosa era non in Puglia. E da poi ti rubava quando lo vendi, Portobello, oggi sarò manco. Due citi di là, solo poi è andato e sembra tardito di più, perché se tu paghi tra a regali scritti bianchi più di 20 euro non ti offre, secondo sai che a ma sì, c'è vero, c'è infatti aveva pagato la motosega nuova aveva pagato 700 euro comprata lì in quel negozio al centro commerciale, come si chiama, meccanica Sassarese, adesso non ricordo come si chiamava, 6 mesi di vita ci aveva, 100 euro l'ha dato. Perché è un ladro, e allora io ce l'ho in garage, non vanno per la motosega, un cazzo gli do, la da comprare che hai lì. O se non me la vendo così a privato, già me la vendo lo stesso. Io l'altro giorno mi ho venduto il tavolino del televisore, perché intanto adesso c'ho quella parete attrezzata, dunque non mi è servita. Ha già fatto subito indinare 50 euro, te il nuovo lungo. Sono giusti, si danno i biglietti e se si danno in busta. Che... Vabbè, magari lo da zia di ti da zia di giro. Sì. Più di quello non ti dà, massimo 10-20 euro so, non di più. E allora chi scemo io? Comincio la cristalliera che la sto prendendo, l'ho messa anche su nel telefonino. E nuova, tutto il massello, tutto il legno. La sto dando 500 euro. Caravù, l'ho messa anche sul telefonino. Però altri non li do, già sono poco lonti. E l'Ofio già è l'Ofio. Guarda che il capannone del comune è stretto quello là, è piccolo, se fosse stato da 1200 metri quadri allora avrebbe fatto il culo di andare per fatta, perché la gente ha fosse riportata da una porta, se l'avrebbe data lì, l'avrebbe data in regalo la roba. Ma non penso che molta gente secondo lo sapeva, ma io ho visto gente che aveva piatti, cose di casa, di cucina, posate, picchi, ma una marea di cose che questa signora aveva scaricato, da poi che mano ventino, se no si la dita puttassi sicica, quella scema si ha preso le ventine, e poi Edio ce le lasci in tegli, ma un sacco di cose nuove, hai capito? Dice 20 euro se ne ha fatti in due oggetti che ha venduto, poco all'occhio. Sì, napoletano, sia lì, di fronte al Cittamercato, sia dall'altra parte, tutta roba sua. Hai capito? Ha preso un altro capannone e in pratica ha diviso le cose. Fa figurare che sono due ditte diverse, hai capito? E l'altro dove ce l'ha? Dove la prima c'è l'altro. Lì c'è lui, e invece dall'altra parte c'è la figlia. Ah, dopo la prima riaperto, perché l'ha chiuso? L'ha chiuso sì, ha sistemato un po' e ha riaperto. Se ci ha trovato un alimentatore, due baracchini ci ha trovato lì. Ne voleva 50 euro l'uno, gli ho fatto vedere il Baofeng, gli ho detto ascolta, io ho detto questo qui lo pago 25 euro, io vuoi che ti dai 50 euro per quei due baracchini degli anni 30, gli ho detto vai cocca degli aiuti, vai. Ecco che ladro, mio, dove era lui più giù c'è anche quell'altro, che è napoletano lo stesso. E sono un po' peggio dell'altro, so, va. Oh yeah. Sì, sulla tadì. E la vendendo in svendita, tutto a un euro. E l'entrata con mia moglie la bella, molte salita per qui. Che è tutto a un euro, ma che c'è amaro comune la fatta, la mondetta. Un molte salita per qui. certe cose pesci cadono di cazzo se li scusi. E uno magari che gli serve, se la prende la roba unito, in più di strano. Chi vuole entrare avanti? E anche il vino bianco se lo vuole, non c'è problema per quello. C'è ancora, tranquillo, c'è ancora. Non so così scemo. Già lo so, appunto per quello che è buono. Ho messo nel pollo, l'ho messo oggi. Fa bene per cucinare, per coso, è di lusso proprio. Vino fatto dall'uva, non vino fatto dall'acqua. Chi è Mario? Sì. Salutami. Mario ha detto Graziano di salutarti. No, non ti sente Mario, no. Dove ti metti il titoletto? Quell'antenna che c'hai lì, laboratorio, della macchina. Ti metti un calvetto, un paletto, un terrazzino, a voglia che arrivi. Hai provato ad attaccare l'antenna esterna adesso, lo sento, Antonio. Sì, sapete la scala sopra, non c'è problema, sono già salito una volta in quella botola di casa tua. Se la vuoi mettere sopra il tetto non costa nulla. Adesso tuo fratello non c'è, faccio altro per salire sopra, ci metto l'antenna in un paletto e poi ti butto il cavo giù. Un paio di fiori di patate di limone. Non devo dare i crisantemi, no? I fiori delle patate di limone, per quello li metti la pianta, scusa. Almeno la gente quando va là va a farsi limoni e patate. Bello schifo, vedaretto, Crocro. Grazie, c'è stata l'antenna esterna. Aspetta che la sto attaccando. Adesso Mario attacca l'antenna esterna, grazie, vediamo se ti sente. Tu mettiti in terrazzino per quello, Mario. Perché? Già scarica la batteria della macchina. Come mai? Già facevo le bizze sta quella macchina, quella batteria. Arrivi quasi fondo scala adesso. Ti dovrebbe sentire, sì, vediamo un po'. Grazie, lo senti? Ancora non l'ho attaccata. Già te la metto. Una penestra. No, anche sopra cosa mi puoi mettere? Sopra il laboratorio. Non ci vuole molto, un paletto. Appena per il cemento e ci metti l'antenna lì e chi ti vuole vedere che te la tocchi? Puoi attaccare anche il terrazzino dalla parte di dove abiti tu. Ma quello è vero che c'è il terrazzino, basta uscire fuori. Poi ti metti in cortina e metti nel terrazzino. Tanto c'è lo spiritoio, no, mi sembra. Perché davanti non puoi metterlo, il terrazzino è davanti. Il terrazzino davanti già esce, basta avere un palettino da un paio di metri, la voglia che già va bene da lì. Io da quando io scendevo da Nico mi sentiva tranquillamente a me, viene Dante, via Napoli, addirittura fino ad arrivare allo Spin. E che secondo me si è più aperto la parte di via Civitavecchia, perché dalla parte dove c'è il cortile si è chiuso dietro quattro mura, il discorso è quello, devi passare quattro palazzi. Antonello, fallo venire avanti che se lo sento. Aspetta che, dimmi grazie. Fallo venire avanti a Mario se mi sente, avanti Mario. Mario lo senti la grazia? Vieni avanti, mi senti Mario? Guffo sono. No, non vi sentite a vicenda. Oh, non mi sente. Ah, sono in questi giorni, gli metto l'antenna esterna, gli metto grazia. Ah, lui diventa lui. No, non lo sento, mi sembra che l'ho sentito col PMR. Poco qua. Beh, il cavo sta andando. Con il portatile mi sembra che l'ho sentito. Secondo me dove si mette? Io sono sicuro che se si porta dalla parte della camera Mario di via Civitavecchia ti sente, Graziano. Con questo non lo sento, Ho sentito un passaggio poco fa, con il portatile però. Ah, con il portatile l'hai sentito appena appena. Non lo sento, no, adesso c'ho anche l'antenna esterna, Antone. L'antenna esterna sei più bassa, non so dove l'hai messa, grazie all'antenna. Dovresti arrivare più alto invece sei più basso, reagisci più forte col portatile. dal terrazzino, ma sul palpetto c'è l'antenna. Ma è più in basso sotto la manto vai, da diciamo. Non sta tirando bene, no, quell'antenna, però grazie. Perché dovresti arrivare molto più forte di quando ti metti nel terrazzo di cucina. Il terrazzo di cucina tu arrivi quasi 9. Qua arrivi 5 se sei con l'antenna esterna e non è possibile. È l'antenna esterna c'ho, però è sotto la mantova, un metro di distanza come larghezza, e però è più in basso, molto sotto la mantova, è là. Aspetta, non ho capito niente. Cos'hai detto, Mario? Mario, adesso mi senti, ti ho sentito. Mi sento a tratti, ma ti sento. Prova. Sì che ti sento, qua ti sento. Dica, non è Mario quello. Era Mario. No, quello è un altro. Sì. Sono ti sento, tutto a tratti sei uscito. Cerca un punto buono. No, non ti sento. Tutto a tratti, ragazzi. E chi era Antonio? Boh, forse era Luca, non lo so. Era Luca, boh. Mario, cosa hai detto? Devi salire su, dove? Rifornitore. Ah, ho capito che devi salire rifornitore. No, io mi sta. Però mi chiama Giovanna, devo scendere dallo spin. Non c'ho niente in frigo. Io ho bevuto, devo riempirlo. Quindi fa, appena mi telefona, ti chiamo, già ti chiamo dalla macchina. Tanto già mi senti via Milano. Vicino a Fusaro, ma due polli o uno? Io già ci passo la craia, allora, se vogliamo un po'. Vediamo, devo comprare un po' di roba, manca tutto. Devo comprare anche patatine fritte, coso, fagiolini, che me li sono mangiati quasi tutti oggi. Che mi devo rifornire. Ah, per quello non è problema, ce l'ho il vino. Ah, ma con il buco la varecchina. Uno varecchina, l'altro varecchina dalla birra. E tu la chiami varecchina, la birra in chiusa. Poi tanto il pezzo di scendere, ci assumeremo un po'. Te lo vuoi bene. Grazie, Ano. Aspetta che mi sto facendo il caffè, sto mettendo la caffettiera. Poi dello caffè, poi ti. Vabbè, Antoni. Dimmi tutto. Il giorno che salgo me la metto più in alto, dove c'avevo la mantova prima, che è il punto più in alto lì. La mantova la lascio dove già sta bene lì. La metto più su, la metto. Mi sembra un po' strano l'antenna, perché non sta pompando come deve pompare. Esce più forte con l'antenna in gomma, l'altra dalla cucina. Che comincerai adesso, è strano, non sta guadagnando nulla quell'antenna lì. Controllati magari il cavo, il PL, non sai, magari anche stazionarie. No, lo spesso nel cavo già era buono, già è buono. L'ho messa lì perché la lunghezza del cavo ci avevo quel tanto, l'ho messa più avanti della mantova, sotto la mantova. Perché il cavo ci avevo questo, capito? Non ne avevo più lungo. Però adesso quando salgo, che mi devo cambiare anche il cavo dell'antenna della 27, quella lì la levo da dove, la metto più su, che rimane più in alto, dove c'era la mantova prima, ti ricordi dove l'avevamo piazzata? Nel punto più alto. Adesso la manta va nel punto al centro e della discesa di dove l'abbiamo appesa, te la ricordi? Sì, già me lo ricordo già. E la manta va adesso, non è più dove l'abbiamo messa noi quando l'abbiamo piazzata, è a metà discesa di Salvara Dagivei, dove è appesa l'antenna. L'avevo levata da là, che era troppo in alto, che mi veniva male a travagliare quando vogliamo il cavello, l'ho messa più giù un po', che così cioè, con la scala lunga ci arrivo bene, capito? Però quella là, quell'altra, il PMR, la levo da davanti e la metto più su, dove c'era la Mantova prima, da lì è più libera, è più in alto pure. Da lì dovete arrivare molto più forte, grazie, però il segnale è 4 verso me. È quello che è strano, perché esce molto più forte la terrazzina con l'antenna in gomma, non è una cosa logica. Quello ti volevo dire, mi grazie. O ti prendi un'antenna di quelle da internet direttamente, tanto costano una fesseria quelle antenne per le 31 euro, mi sembra male quella pagata per il PMR, sarà alta se non un metro nemmeno. Guarda che l'ho presa da internet io, solo quella lì non è proprio adatta per il PMR. Funziona lo stesso il PMR, ma non è adatta per il PMR. Adesso non ricordo come si chiama, se la VH30 mi sembra, che si chiama, può essere. La come quella che ho io, certo. La X, tu c'hai la X30, che è lunga manco 50 cm, bianca, con tre radialine, ho capito. Io invece ho la X300, ed è lunga quasi più di un metro quella che ho io. Però quella che scelgo il tuo migliore di quella è la direttiva, quella che ho io. Quella 10 elementi. Quella fa fino a 500 e passa mega, si capito? Fa V e U. No, io avevo preso quella perché mi avevano detto che andava a ziave, invece non va assai bene. Adesso non lo so, perché lì in basso a uscire già esce, già mi sento. Però magari non c'ha potenza, usa lì su. Ci vuole proprio l'antenna del PMR. Quella va bene nell'IPD, quell'antenna, 433, 446, ormai siamo fuori banda, l'ha fatta anche a me. Io la X300, che è la verticale, esce molto più bassa di quella che sto usando adesso, capito? Perché non è adatta, è adatta solo per le frequenze aeromotoriali, fa da 144 a 440, vola lì poi si ferma. 4,46 non ce la fa, bisognerebbe o allungarla o accorciarla, adesso non mi ricordo. Ma io me la compro proprio quella giusta per il PMR, solo io non lo so quale, tu magari te ne intendi, io non me ne intendo. Io avevo preso quella perché mi avevano detto che andasse. E c'è un tubo bianco in plastica, come un pezzo di tubo bianco, sarà quasi un metro, là, e tre radiali in acciaio, cioè. E blu. Sì, già ho capito, comunque là c'è Giancarlo, mio cognato, che quando l'ha installata non usciva nulla, quel tipo di antenna. Infatti ha avuto sempre dei problemi, ha avuto. E altrettanto li ho avuti anche io. L'ho installata, però è come se... cioè, la uso più che altro... non c'è molto guadagno, perché se te l'attacco te la faccio sentire con molto più basso di questa. E quella che ci ho io è adatta solo per la V e la U fino ai 440, per andare ai 446 bisogna accorciarla, se non mi ricordo male. Quindi bisogna tararla, in aprile tararla. Vabbè, che statale non me ne segna, però non lo so, ma non c'è molto guadagno. Questa vicenda, Mario, ce l'hai tu, che cosa? Questa c'ha tre radialini in acciaio, è un pezzo di tubo bianco, adesso non mi ricordo se l'avevo parlata sulle 28 euro, una cosa del genere, buh. Ho capito, grazie. Mario, quella che c'hai tu in acciaio è quella della macchina, non va a 4,46, capito? Quella bisognerebbe, vabbè, nelle PD va benissimo, perché l'avevo usata, me l'avevi data tu, messa nella staffetta usciva tranquillamente, parlavo tranquillamente con Genova, però la 4,46 bisogna fare i calcoli, Mario, perché è una frequenza bastarda questa, capito? Secondo me è un'antenna adatta, non c'è nessun guadagno. Perché c'ho la X300, visto quella bianca che ho io, c'è tra le radialine, Mario, quella lì. Beh, quella c'è più bassa di quell'altra che sto usando adesso. Eppure quella è una che fa 144, 440 per dire. Esce molto bene in quella frequenza, perché l'ho provata, esce molto bene, c'è un bel guadagno, solo che in 446 è una frequenza che non si adatta bene, invece in 433 esce forte in LPD, invece in TMR è una frequenza tutta strana, e quello sì. Quello sì, l'unica che va bene è quella che sto usando adesso, messa in verticale, e che è puntata a Monte Oro. Quella è una bomba questa antenna, va in sento a tutti e va in qualsiasi posto. Invece la verticale purtroppo è diversa la cosa. Adesso te l'attacco, aspetta così, te la faccio sentire con 5 watt. Aspetta un attimo. Ah, questa qui è più potente. Guarda un po' di testa, guarda di testa, è chiaro, grazie. Oh, beh, non mi sentivi con l'altra? Di me no? Questo è, questa è la direttiva, quella, forse uso il X300, aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, guarda un po', 1, 2, 3, sono con la verticale. E qui c'è, è la tenda, non è andata a niente, ma se va a livello di qui, è la tenda per niente. Adesso è diventato con l'altra. Vabbè, il cavo è anche nero, è la verità. Devo cambiare il cavo del 58 perché è nero, la calza. Devo cambiargliela tutta, quindi devo cambiare tutto il cavo. Evidentemente è entrata acqua. No, c'è uscita la cinesina. Ho detto ciucchicciù. Tony, sono buio. Guardi, loro hanno trovato salite belle. Dimmi, grazie. Mi sto mangiando una frittella col caffè, con la crema, senza il buco. Stamattina le ho viste le frittelle, ormai è tempo di carnevale. Grazie di accorciare il bobo. Un chilo di frittelle 3 euro. Di quelle fettelle lunghe. No, questa è una pasta, quelle a ciambella, però senza il buco, ripiena di crema. E quelle già sono buone. In Bonareda mi c'ho la pesca, c'ho quello fatto a vu, poi cosa c'è? C'è il vasoio delle pasta, a scelta. Ah, va, mi mangio vista. Ah, quindi c'hai il vassoio delle paste di mattina, il barrado. E allora, sì. Paletta ce ne sta mangiando una con il cioccolato fuori e dentro tutta la panna bianca, sì. Già è buona, quella, già. La cantuela delle frittelle che hai visto? A 3 euro erano quelle frittelle stamattina. Ciao Marco, mi hai sentito? Bene, abusivo. E allora, come va? Benone, siamo andati a piazzare i segni stamattina, pigliarci il caffè, fare la spesuccia, eccetera. Adesso vai a farti la spesa. A Lido vai. No, per oggi siamo a posto, siamo andati da MD. Saluta Graziano, che non mi sentirà. Graziano, saluto lì da parte di Marco. Che ricambiali, come va? Non lo sento. Lo sentivo prima, dove? Marco ha detto che prima ti sentivo, ha detto dove sei. Cos'è? Ti ho parlato sopra, Marco, cosa hai detto? Marco. E già, ho detto mi arriva nel QRM, Graziano. Stavo usando l'antenna esterna, Per me c'è qualcosa che non va con l'antenna esterna, peggio della mia. Prova con l'antenna in gomma, Grazia, dovresti sentirlo. Aspetta, lo prendo. Adesso ti chiama la portatile. No, guarda che Graziano qua non è mai arrivato. Comunque arriva basso, io lo capisco adesso. Vediamo col gommino. Con l'antenna in gomma qua addirittura mi arrivava con quasi 7-8 dalla cucina. Quando si metteva fuori dalla finestra, invece con l'antenna esterna che c'è sopra il tetto arriva Santiago, segnale 4. E che antenna è? L'X30 c'è che c'ha. quella bianca con tre righe, come uguale a quella che ho io, solo che è più corta. Marco, mi senti? Marco, lo senti adesso? No, sempre per quell'ennia, a tratti arriva adesso, perché si muove. Ha detto che adesso arrivi a tratti. Anche lui lo sento male, aspetta, prova a spostarmi. Prova a parlare. Millomi? Graziano, Graziano, mi copi, sono col portatile. Ehi, alla quadra ti copio, mi senti? Sì, adesso arrivi abbastanza bene. Strano che con quello, con la tenessena non ti sento, boh. Sai cos'è, bisogna vedere se è nuova prima di tutto. Purtroppo risuonano sempre in basso quelle antenne, in PMR non ci arrivano tante, nelle PD arrivano di più. È nuova o usata? No, è nuova, è la HV30, sarà alta un metro, là, c'ha tre radiali in acciaio e l'ho messa sul tetto. Ehi Antonelli, io l'ho sempre detto, ci vuole la Diamond BC202. Quella è sterabile, diventa di lusso, purtroppo non la posso comprare a chi non va giù di là. Lo so, ci vuole anche una latta infatti, per il PMR ci vuole anche una latta, per l'LPD non c'è nessun problema, ma per il PMR purtroppo siamo messi così. Graziano, la fai una prova veloce? Che prova, dimmi. Non so se lo sai mettere. In LPD il canale 1 433075 e fare una... No, fregatene, lascia perdere. Ma intanto non lo so mettere, dimmi. No, è impostato così, non l'ho mai toccato. No, perché poi c'è un antennino adesso, la prova non vale. Vabbè. Oh, Cantone, te l'ho detto, potrebbe essere anche zona non favorevole alla tua, Antonè. Perché ricorda, ti passo a spostarla di antenna UHF di un centimetro e passi dal non ricevere una persona a riceverla con lo scala. E la UHF purtroppo è così. Oppure devo appigliarsi questa che ho io, la CX440. Costa anche meno, vabbè. La decorare ci vuole l'altra, hai capito? L'altra per il PMR. La X300, la X30 non serve a nulla, ce l'ha anche mio cognato, ce l'ha precisa. Non riceve nulla e non trasmette niente, non riesce a uscire. Sono antenne di fatte strane, non si sa capito? Antonello, poi mi dici che antenna è, me la segno e me la guardo nel computer. Quella di Marco, che c'era lui piazzata. Marco, com'era la tua? Quella che c'è nel terrazzino? Sirio CX440. Sirio CX440. È alta 59 centimetri, diglielo. Allora, grazie a la Sirio CX440. Quella che c'è a Marco. Ah, e funziona bene, proprio per il PMR. A chissà. Non è proprio per il PMR, sarà per quello. Quella di Marco è per il PMR. Aspetta che me lo scrivo, così la guardo sul computer. Va bene. Antonè, vado in bagno, arrivo subito. Eia. Ma io è da una vita che dico, le uniche antenne per PMR sono la CX440 Sirio e la Diamond BC202, una volta tarata. Anche se continuano a comprare X30, vabbè, poi, poi bisogna vedere come ci ha fatto i collegamenti Graziano, che cavo ha messo, quanti metri ha, che connettori ha messo, se sono saldati bene, se ce l'ha sul tetto il cavo, te l'ho detto, ci vuole l'H, aspetta un attimo. Ma anche non te gaglie, va a cucarti. Fidomi a pizzo e scinto. Vai un attimo alla monitor. Oh buca, ci sei? Sì, che ci sono. Com'era? Sirio, CX440. Ah, e sei sicuro che funzionava? E com'è questa antenna? È lunga 59 centimetri. Solo. E funziona bene. Così, mi ha detto così ti sto dicendo. Sarà. E a me quella là me l'avevano detto. Noi siamo andati assai bene, però già funziona lo stesso, però se non ci ha resa di niente, sarà per quello che non sento un cavo. Anche io ho stessi problemi, solo che vabbè, io ho il cavo da cambiare, il cavo mio è, c'è la calza nera e il polo positivo resta senti qualcosa, capito? Devo cambiare il cavo, devo cambiare. Perché è nero, evidentemente è stata qualche filtrazione dell'acqua, perché c'avevo l'abitudine prima di metterci il cavo fuori, quando c'era il temporale, capito? Evidentemente è entrata acqua da prima, ha seguito il cavo all'interno e si è in marcia. Adesso in seguito me lo cambierò, anzi me li cambio tutti e tre i cavi, così sono più sicuro. Io già l'avevo comprato il cavo, 30 metri, penso che me ne avanza. Se mi avanza lo uso come prolunga l'altro, con il deviatore d'antenna in casa, mi metto il deviatore e me lo scosto anche in cameretta. 30 metri, mi dovrebbero bastare. No, quello che ho preso io era via 490, adesso non ricordo come si chiama, è marrone. E il filo interno è unico, mi capito, grosso, non è a filetti. Ho capito, ho capito. No, io, quello dove stai dicendo tu l'hai preso da Fusano. E via 4 novembre, l'aveva preso Gio Maria che c'era lui lì, dovevo salire lì, invece me l'ha preso lui, ma c'aveva solo quei 30 metri. E la gente piglia mi può schiggiarmi vaccia. E che ti è bastato se lo stai usando? Non lo sto usando, ce l'ho, devo attaccare il PL, salire su e attaccare la lanterna. Ma se gli s'antenna non ci va resa di nuda cosa cazzo, ma con gli attacca e s'antenna. E appunto per quello. Se ti compri quell'antenna lì, tanto costa una fesseria, su internet, l'ha pagata 31 euro, adesso non mi ricordo. E almeno sei più tranquillo. E beh, se quella è proprio data per il PMR, mi bellugisa, perché quella che c'ho io quando mi hanno detto di pigliarla, ma lì ci andati a vedere, io non me ne intendo. Già funziona, però se non ci ha resa di un tubo, lo intendo manca a Marco, che cazzo d'antennai? Io comunque ti sento meglio col portatile che con l'altra, la verità si dica. E anche io sento con l'altra, doppio mutto, non sento manco a te, figurati. Adesso vediamo un po', secondo me la distacco e me la metto da una parte, tanto è inutile che ce l'abbia. Ma noi che funziona più in basso, la cosa mi so, io non me ne intendo. Vabbè, più mi sembra fa 144 non di più. Io l'ho provata anche dentro casa, mi prima di piazzarla, solo che dentro casa non fa nemmeno i piedi. Allora l'ho messa lì sul tetto, non è che sia molto distante. Sarà da qui a dove l'antenna fai all'ingrosso mi 10 metri sopra il tetto in cucina dunque è vicinissima, ma se non piglia un tubo, cioè non intendi a nessuno, appunto esce meglio Tore con quell'antenna che c'ha che tu guarda, Tore arriva a fotoscala qua nella casa sua ed è vicino a te, non è lontano. Ettore non lo so com'è, quella Ettore mi sembra che è uguale a quella, è strano. Perché quando entra Ettore glielo chiedi, perché io non, la verità non gliel'ho chiesto. Chiedo la cantina c'ha, lui arriva a fondo scala qui, è l'unico che arriva forte. Ettore è già vicino da me, lui è praticamente dopo la bretella lì vicino, va? Io qua però devi considerare che c'ho il grattacielo di fronte. E vabbè, non è che questo e deve passare tutto Sassari per arrivare a casa mia, mi ce lo sai. Ce ne sono i palazzi, c'è il grattacielo, c'è tutta la zona lì dell'ingresso di Sassari, non è che sia lì, è tappato per mettere. E beh, lui per te, lui è anche in un pozzo, perché praticamente lui è dove c'è la chiesa, lì vicino, ed è in basso. Più alto di qua, di dove sono io, è vero, più alto di me è lui, è in corrispondenza da qui a dove abita lui, lui è più alto, molto più di me. Già lo so, è vicino alla Maria Mansell, vuoi che non sappia dove abita? E dunque lì sono più alti di dove sono io, adesso che un pulso, già l'hai visto. Io già le ho viste, già le ho viste, già. Io aperto c'ho quasi tutta la zona verso Porto Torres, Sorso, Sino, Platamona, Ussi no, che c'è il grattacielo di fronte. Però verso Alghero è libero e non pigliamo un tubo matese. Come la mia? Non vendo un tubo queste antenne. A volte esce meglio l'antenna in gomma pensata in una staffetta. Giuseppe Lucino c'ha la Diamond, quella della macchina, c'ha, so che ce l'ha dentro a casa. Se la metti fuori vedrai come esce forte, in un paletto. Io avevo pensato, come già l'ho usato, ho pensato in un paletto, usciva veramente forte quell'antenna, arrivava fino a Trentino, figurati. Vabbè, io sono anche in alto. Aspetta un attimo, già vento subito. Via. Lampa di tutto, grazie. Antoni. Via, stavo sistemando una cosa, dimmi. Cosa stai facendo? Via, aspetta che sto sistemando una cosettina. Arrivo subito. Via, già sono qua. Sempre io. Avanti. Ehi, Marco sono, ma Pomponi è sparito, eh. Sta facendo cosa, Marco? Mi senti? Sì, sì, ti sento. Sei sempre con l'antenino, no? No, col gommino. No, questa antenna non si va, non ti sento. Mondezza. Col gommino volevo dire. Ascolta Graziano, dimmi che cavo hai messo e quanti metri ne hai messo e che cavo è? No, ma dal cavo non me lo ricordo, non l'ho messo ancora, lo devo mettere. È color marrone, e via 4 novembre me l'aveva preso Gio Maria al cavo nuovo. Da sostituire, adesso c'è quello nero che non si fa nulla. 30 metri me ne aveva preso perché non ne aveva altro. E mi sembra avevo pagato 50 euro, una cosa del genere. Non mi ricordo, Gio Maria lo sa il nome. Ce l'ho conservato. Ah, ma l'antenna dove... questa antenna esterna dov'è? Non è sul tetto. Ma non si va un tubo. Cazzo, non sento neanche a te, per carità. Da Mondezza è quella, un po' pare un roccio di cupolo, dico sarà 90 centimetri, con tre radiali, ma non serve un cavo, non senta nessuno. Ehi, ma che cavo hai messo? Quanti metri? Ah, quello nero, quanti metri non me lo ricordo, sfasato era il metro, come metri. Era uno spezzone che mi era avanzato di quello nero, un morbido là, quello fissottile. Avevo messo quello, ma non va neanche bene quel cavo, così mi hanno detto. Guarda, minimo ci vuole l'H155. Quello che ti ha preso Gio Maria, credo che sia marrone. No, non marrone, grigio, guarda bene che è grigio. Se è quello l'H155 va bene, più o meno, però se sono molti metri, se sono 30 metri giù di lì è meglio da capire, vabbè. No, come distanza, no, non li faccio, non la uso io questi tipi di... Chi mi ha dato un capo in cucina, antenna, cosa ne so, saranno 10 metri là, a fare il pezzo del giro e la calata qua in cucina. Neanche ci saranno 10 metri, fermo 10 metri là. Ah, però l'antenna è bassa. E il terrazzino dove si affaccia? Da che parte? Non è bassa, se sul tetto dove c'ho l'antenna grande, più bassa dell'antenna grande, è sotto la manta, poi non si vede nemmeno da arriva. Boh, che strano, che pare strano. Boh, se non è che vuole più in alto, ma... quella è l'H30, XH30 mi sembra. Mi pareva strano, e poi mi avevano detto che non era neanche adatta proprio per questa radiolina qua. Poi avevo preso anche il riduttore, ma provarla, WMR, esce più bello con un gommino che con questa mondezza. Sai cos'è? Quelle sono antenne amatoriali, installate per i 4,30, 4,33. Soprattutto in basso sono terrazze e noi siamo sui 446, è molto in alto. E vabbè, chi voleva l'antenna che dicevo io, però nessuno mi dà retta. E mi ha già dato il vostro faro volo, tanto non serve, ma queste antenne così non servono a un cavolo. È come quella della 27, faria un ruccio di cupolo. Non si via lunga, era alta un metro quello, si aveva fatta la mondezza. L'unica persona che ti piace è Maria, dai non che ha la fiducia. E più lontano non sentiva nessuno, per carità. Vabbè, sono antenne di stretti, non servono a niente. E c'è più bel così con un gommino, che con chi se chi su questo di compro vince, cioè non è nuova, l'ho comprato, ma non servono, cosa ne so, o non vanno bene, non sono adatte, non lo so, non me ne intendo, io l'ho presa perché me l'avevano detto, ma ho sempre capito, non servono a un tubo, mondezza, truffazione, per me non vanno bene neanche per questa radio, va. Lo so, Grazia, te l'ho spiegato, quelle sono antenne che vanno bene in banda amatoriale. Tu dovevi comprare quella che ho io, la Sirio CX440, ed è un'antenna lunga 59 cm, piccola, c'ha la base grossa e poi un pezzo di stiro dritto, ma è fatta apposta per queste frequenze, è piccola eppure va bene, è quella che sto usando adesso. Oh, e come mai? Ah, io non ti sento neanche con quella là e con questa ti sento, quella che stai usando adesso. Con il mio ti sento, con questa non ti sento, dovrei sentirti con quella che è pure abito e non si va nulla. Ehi, ce l'ho pure bassami, ce l'ho nel terrazzino, è coperta dai palazzi, eppure arrivo. Perché quella magari è adatta per la radio, proprio per quella, per il DMR. Ah, quella che ho messo io, non si fa nulla. Quella magari è così, è proprio per il DMR. Aspetta che sono al telefono. Già sono qua, chiama. Chi è? Avanti. Ciucca ciucca ciucca già. Bello, stavo preparando la roba. Le buste. Per la spesa. Via, mi stavo mettendo da una parte. Poi stavo sistemando roba dentro delle scatole che ho tolto. E sono piena, già voglia. No, le borse vuote. Sì, che sono vuote, devo riempirle. Ehi, ci sono due braccia, altro che se ho sette. Non ce l'ho il cavello della nonna, no. Per quello faccio come fanno un sacco di gente. Mi piglio il cavello dello spì e me lo porto a casa. È pieno un po' carbonato di cavelli. Dello spì. Allora. Ce la faccio a salire il cavello, là. Tutto in salita. Vai, vai. E quando arrivano qui sono già morto con quel cavello. E adesso l'aggancia qualche macchina. Capito? Parlo di qualche macchina, non lo faccio salire sul cavello. E mi ci metto anch'io sopra. Lo trainavo con la testa. Sì, c'era una corda, l'aveva messo una faccetta. Me la appoggiavo, aveva la fronte io. La corda e camminavo e lo trainavo. Fino a su, dove c'era all'officina, più sopra della vita. Proprio lì dove c'è la CBC, quella traversale. Sì, già ho capito già. Un bel po' di salita già l'hai fatta già. Dalla casa di Magonzaga fino a lì. Non è che sia molto alta, ma tu immaginati se dovessi arrivare fino a dove sono io, quel carruzzo, saresti già morto a quest'ora. E la salita è bianca di Abruzzi, non la curti, c'è via Napoli, come fa la curva? 200 metri avanti, sulla sinistra lì c'era il negozio di Cesare Tanda, pezzi del ricambio. Li caricavo e poi facevo tutto il pezzo via Napoli, la curva, tutta quella salita di via Duca degli Abruzzi, fino ad arrivare ai pompieri. E poi tutto il prolungamento e poi dalla Gonzaga fino all'officina, non è salita lì. E la strada di via Duca degli Abruzzi già è ben da ripida già. Allora sì, già è vero, già è vero. Quando salire su è già morto. Come arrivavo su era mezzogiorno e la moglie mi aspettava perché ero un ragazzo. Alla finestra come mi vedeva mi diceva Graziano vieni qui. Mi buttava il bigliettino con la spesa che doveva comprare e andava a quel negozio dietro quella via lì. Dove c'è la scuola guida, il bar, parallela a quella via, che c'era un alimentare, e lì gli facevo la spesa, e lì c'era l'anno e mezzo, lì lui a chi l'ha sempre pieno sul negozietto, già lo sai qual era il negozio. Ok, già ho capito già, e quindi ti mandava a portare il cambio e anche la spesa per la moglie, bubù. E lo sabato nessuno andava in officina, io dovevo andare a chi doveva pure tutti i berri a te va ad aprire a voi. E beh Antoni, io già sono qua. E beh te ne facevi la canna, te ne facevi. E quella lì mi mandava a comprargli la spesa. E te lo dicevi, poi sabato dovevo andare io a Risetti di Manzano, pensamente a due mesi, di tre, a pulire tutti i ferri, a spazzare tutta l'officina, a lucidare qualche macchina con il polis che c'era da lucidare. E anche fino alla sera di sabato, quell'animale. E poi non so quanto mi dava la settimana, al mese. 6.000 lire, me lo ricordo ancora, tutti imburigati con un pezzo di bambino, lunastro, mi diceva, chi ci ridai a babbo Gioio, chi è lo stipendio Gioio? E lo sappia quanto vera, 6.000 franchi vera, ed è un mese, chi i treni a Risetti di Mazzaro, ovviamente, li dice a Londra. Se la facevi l'affare, tuo padre non ti diceva nulla. E lui me l'ha cercato quel lavoro, il primo lavoro era. Cazzo, sono confuggito il tempo di 3 mesi, ma con la strada a giudizio, se l'ha mandato in ora a mare. Hai fatto bene, cazzo per 6.000 lire, 6.000 lire, uiaia. A chi li disiare? Imparo un mestiere così a un vicino. Cazzo, mi imparava a farmi un culo. E adesso mi sarà con tutti e due, allora dice, fanno lavorare, fregato, diceva, a tutti i dindi. E allora, a chi erano i compagni da minori, no? Farina, officina e farina, che le avrei sentite, vi sono una vita, sono i padroni, che subizzo, ma viene da reni, pure, poi se li avranno venduti, erano belli fratelli, carrozzieri e meccanici. A giovane ti faccio precarare all'officina con un carburo. Ascolta, ma quello che stai dicendo tu è via Colaruzza, la prima traversa in quella palazzina in mattoni rossi? Quella che proprio di fronte c'è la Fiat, c'è la rendiera della Fiat, che tu guardi dentro lì c'è il piazzale, c'è. Ah, di fronte alla Fiat in via Catalocchino sei parlato tu? Più giù dalla GBC, all'incrocio lì c'è il semaforo della rotatoia, lì quella traversa sulla destra, che sta di fronte alla Fiat. Già ho capito, di chi stai parlando. Già lo conosci anche tu, comunque ci parli col figlio. Perché il figlio c'è il baracchino. Oh, e chi? Non te lo dico chi è, se no io ho già capito di chi ti stai riferendo. Tutta quella palazzina, compresa l'officina che c'è sotto, poi dietro, tutta mattoni rossi. Quella palazzina grande, già ho capito di chi stai parlando. C'è un cortile anche lì, che c'era un giardino, ci metteva le macchine da lì. Già ho capito, c'è il baracchino tuttora quello, il figlio. Entra il baracchino, entra poco ma già entra. Non lo so. Il primo lavoro era lì, così il signor Giovannino era il padrone, si chiamava. Il proprio il capo ufficino, perché erano tutti fratelli i miei figli. Già ho capito. Adesso mi vedo un fermetto che stai parlando. Era un tipo, uno dei fratelli, che era un po' con capo finito allora, io ero un ragazzo. Ci trincava poco, già. E ogni giorno era una pulli di birra. Adesso non mi ricordo il nome, non so neanche se è ancora vivo qui. E vuol dire che piaceva la birra bere. Perché era fresca e poi rinfrescava. E mi mandava la cua che si alimentava a pigliare via la birra. Mi diceva, stai zitto ad Areggio, non ti fa vedere, non pensa a correre un vizzito. E già me la faccio mettere dentro la busta. Fatemi la bugna, è una busta di bambino, chissà dell'alimentare. A chiediamo una busta di quelle di carta e me la metteva dentro e la bevi la zia. Cosa dite? Una via di un bosco, 30 anni su macchinario, allora si usava il carburo per gli ufficini, non so cosa lo trattava. Io lo dovevo accendere ogni mattina quel carburo, però c'era la dose giusta. La via di un bosco di più, ho visto un po' così niente fuggendo fuori dell'officina, tutti correnni, ma correnni voci. A giocare posso ricarare all'officina che la giocare regata un bel più a carburo. Tu sei fuori di testa. E quanto mi hai messo di quel carburo per scaldare? Cazzo, ha fatto un'esplosione, si è fatto un'aria, chissà specie di stupro. Dai, sono usciti un po' sportelli, fuori dall'officina, goffa. Ma me la mano ti ha ammazzato. Tu mi dovevi vedere tutti fuggenti. E le cose è successo. Ma con un bel mano te l'ha ammazzato. Zucca, Zucca! Hai capito, Marco, di chi sta parlando? No, mica sono i 27, non sento una parola, dai, sono venuto a salutare per prima, dai, ero là, ciao. Ehi, d'accordo, Marco. Va bene, va bene. Senta, 27, qualche giorno che ci sei tu, già te lo presento, così vediamo se se ne ricorda. Ma non lo so, grande, è un più piccolo di me. No, era più piccolo di te, già avrà penso una quarantina d'anni. 46. 46 ne ha, lo sai che sto dicendo? Ah, cosa, quello che abita vicino a me. Beh, adesso mi metti non mi attivo. Che c'ha un sacco di apparecchi, che entra una volta ogni tanto. Boh, ma forse l'abbiamo detto. Ma quando ci ho lavorato io ci avevo 16-17 anni. Già ho capito, ma già il figlio c'è il baracchino, il padre già l'hai conosciuto tu. Io ho conosciuto il figlio perché parla baracchino, perché altro. E abitare proprio lì dove stai dicendo tu, vicino dove c'è la circoscrizione di Carbonazzi, che non esiste più, proprio di fronte. No, io li conosco tutti, in Farina, tutti i fratelli, erano tutti che mi travagliano, vero, signor Giovannino, chi dove vicino a me, dopo veniva un altro. Non mi ricordo il nome, 3 o 4 mi sembra che erano i fratelli, lavoravano tutti lì, uno guardava un carrozzieri, l'altro non sapeva cosa faceva, ma non me la metto, che è una vita canzone. Sì, ho capito. Cioè, il nome sulla punta della lingua, se mi viene in mente già te lo dico, come si chiama baracchino. A lui me lo ricorda se ho Giovannino a Chiedo, era il dirigente, diciamo, dell'officina, no? Comandava, controllava, c'erano anche operai, carrozzieri, verniciatori. Insomma, io lì che vi va a imparare un mestiere, sia carrozzieri che verniciatori. Però dovevi finire i ferri puliti, a posto, allo stesso tempo, no? Capito? Lo sguattero! Tu mi facevi il culo e quello ti dava 6 euro a mese. Cosa vita era? Ne manca a me li da zia, che a me mi li da zia imburicati un pezzo di bambino tutto innastrato e mi li dia dalle a babbo d'olio un whisky. Marco è sparito. E adesso che è passato a salutarci che accendeva la 27. Mi sa che è messo a 27, subito, che è meglio. Sì, non sono uguale, ma cosa cambia? Sì, magari nella 27, cioè, sento pure a Marco, in occhi. Per sentirla a Marco, lo sai che ho il portatile, lo devo tenere coricato sul tavolo. Che devi contargli la nina nonna portatile per poter sentire a Marco. Adesso lo... Ti ha rubato. Ma mi ha demoralizzato quell'antenna che se ero così contento era già sul set e fa schifo. Ce l'ho anch'io, ce l'ha anche il mio cognato quell'antenna lì. Lo sto dicendo. Vabbè, io ho il cavo che è nero. Però quando l'ho pulita sì, riceveva, perché riceveva, non molto però. Vabbè, aspetta un attimo al telefono. Figlia. Giù. Ebbè, è tornato, sì. Figlia, sono rientrato. Mi avevano chiamato al telefono. Figlia. Sì, vedi, ce l'ho. Adesso sono qua nello terrazzo. Cosa so? Sono 2000 e un 10 metri di cavo, c'era. Cassetta, non c'è nessuno. 10 metri, tu c'hai 10 metri di cavo, io ne ho quasi una ventina. Prova la provata, solo che c'ho il cavo nero, capito? Quando io ho staccato il piede l'altro giorno per far entrare il cavo dentro a casa. mi sono accorto che c'è la calza nera, evidentemente è filtrata acqua nel cavo, hai capito? Bisogna che me lo cambio. Adesso di seguito mi cambio il cavo, mi cambio tutti e tre, anzi me li cambio, mi sono più tranquillo. Poi gli metto una bella passata di scotch, vasellina, in modo che non entri acqua. No, questa spessone di capo già era nuovo, non l'avevo neanche mai usato, ce l'avevo conservato. Però non è adatto neanche quel capo lì, per quell'antenna. La bui non anda, ne manco questa antenna, è adatta a frutti. Sì, sono antenne che sono fatte per la rimattorina per noi. Chi vuole entrare sotto? Chi che stava parlando che non ho capito nulla sotto? Non c'è nessuno. Io non sento nessuno, a parte che vuole entrare. Oh, Antonia, lo senti? Via. Cos'è detto Mario? RG58 200 metri? Di RG58? Ehi cazzo, 100 metri cosa ne vai? Ne vai tutta. Ma lo credo, li pigliamo in due, allora sì. Si può anche fa. Dividendo in due, ma cosa gliene servono 30 metri? Quante te ne servono a te di metri, Grazia? Ah, e che capo è quello? 58. Ma quello grosso? No, quello fine. Quello nero che c'ho adesso? Io ce l'ho nero così, fine però, non è grosso. Io c'ho quello per 27, le 58. Non c'ho l'HP eccetera eccetera, no. Fatto che ci andrebbe manco nel muro. C'ho quello nero fine il capo adesso. Già è flessibile, però il filo interno, non la calza, il filo interno, è di quello a filetti, non è quello rigido, diciamo. A filetti, ho capito. Io rigido c'ho con le RG59, ma ce l'ho agganciato nell'altra antenna, in quella nella grande. Il 58 sto usando io, capito? Avanti Mario. Già lo so, il 58 infatti c'ho io, sia per una sia per l'altra. Lui c'ha solo 15 metri, non è che non c'ha il RG8, c'ha il RG 58 anche lui. E il RG8 l'ho usato io, non me ne facevo niente, cioè lo usavo una volta perché usavo 600 watt di potenza. Ormai non sto usando più di lineare, usami le bozze, non faccio niente, va bene 58, fino a 300 watt va bene. E infatti appunto per quello, va bene 58, va bene, a voglia, basta avanza. Avanti, grazie. Quello che ce l'ha lui, questo ce l'ho qua a me, attaccato a questa radio, quello nero con i filetti fini, invece quell'altro è proprio adatto per questa radio. E poi il cavetto interno è quello rigido, è flessibile lo stesso, perché è fine lo stesso il cavo. Adesso non mi ricordo se è grigio o marrone, mi pare grigio, boh. No, nero è, nero. A meno che non sia un altro tipo di cavo, anche bianco, se per questo è il 58, quello nautico. Io ce l'ho nero, poi se il fusano ce l'abbiamo un altro tipo di capo non lo so, ma spero che mi stanno chiamando. Sì, avanti, chi sei? Sono spostato Antonello, l'hanno chiamato, mi colpi, Mario tu sei? Tucchi. Beh, non c'è nessuno, bello bene, Gio' Maria. Sì, già ci sono, dimmi. Thank you. guasto sempre. Stavo ascoltando il 27, poi ho salutato e sono andato a vedere la TV. Anzi, prima devo andare a fare la spesuccia qua a fianco e poi mi guardo un film. Vorrei dire brevi. Ah, no, io mi sono appena rientrato da fare la spesa, sono uscito con Giovanna. Ho fatto la spesa, sono appena rientrato. Allora che Mario passavo da lui, io gli ho detto, oh, ma già è tardi. Al limite ci passerò domani. Sta giocando. Ormai sono già le 8:20, se scendo giù, spera di pigliare il tra, salire le 9, eccetera, eccetera. Adesso ci ho messo la pizza in forno, e stavolta mangio la pizza. Ehi, fatto bene, dai. Va bene, ho salutato su 10, sono venuto qua a vedere chi c'era, e salutare voi. Se mi rompo del film può darsi che entri anche più tardi, Sì, sei un film di merda, dico che entrare più tardi. Cioè, già è un film bello, Schindler's List, no, però l'ho visto già varie volte, quindi se mi girano, se mi stanco, vengo qua. Intanto sarei con Mario a quell'ora, ok? Se no ritieni di salutato, ok? Ciao Antonio, ciao. D'accordo, io sono all'ascolto, al limite. Se poi male, c'è qualcuno già che entra, mi sono l'altra volta entrato alle 12:30, aiutati. Tino Muscolo è entrato, cioè, c'è sempre gente che ogni tanto accende e chiama in PMR. Io fa il tono 1750, sì, lo fa ma è troppo basso. Questo non è 1750, questo è basso, cazzo. Va bene, ciao Tony, buonanotte, dai, saluta il signore, ciao. Ehi, ciao, buonanotte. Buona stanotte, domani, senti. Ciao. Che con questo Brondi? C'è nessuno in questa frequenza? Attenzione, c'è nessuno in questa frequenza? Beh, giovinotto, presa dai la parecchina, giù. Ma c'è una che è passata la Nicola, sono andato a fare la spesa di Rospi e basta, sono salito direttamente qua, erano già le 8:20. Da prendere il treno, cosa del genere, scende di nuovo a terra, un casino, al limite domani mattina, intanto mi devo andare al capo, prendere la coppia di quella roba, e poi andare alle poste. Il pollo l'ho messo dentro al freezer. Io lo credo, non ne fanno uova. È un pollo abbastanza grande pure, a 3,50 va bene. Domenica lo innaffio col vino bianco. Vinocchio. Che è sicuro che si ubriaca il pollo. Ciao Giuseppe. E beh, dove sei? A casa, appena finito di cenare. Eh? A casa, ho detto, appena finito di cenare io. E allora ti sei mangiato, cosa ti sei? Imbuttito. E mi sono mangiato di quelle pizze, come si dice, al francio, di Rospi. Gli ho messo il prosciutto sotto, anzi spallacotta per esattezza. Le acciughe, e poi me l'ho mangiata. E che cos'era? Pasta forte? No, era pasta forte, pizza ho detto, pizza al francio, di quelle lunghe, viene offerta. Ho capito, buona era. E io, una margherita, Era, perlomeno, lo era, adesso è diventata, come si dice, trinciato. Vabbè, hai fatto bene. Ehi Mario, abbiamo la frutta di valle che mi piace in più, io. Domani me la prendo. Tanto ci sono i due coniugi, ci sono sempre lì, mattina e sera, cazzo. Ci hanno preso la sedia e il tavolo lì. Che è entrato il Pinocchio? Eia. Salutalo. Mario ha detto Giuseppe di salutarti. Mario, ha detto altrettanto Giuseppe. Cos'è che ha detto? Ha detto altrettanto di salutarti anche a te. Sono passato a Coso. Sono stato nella Pisa, però non c'era quella persona lì. Ho capito Giuseppe, cosa hai detto? Chi è che non c'era? Ho detto che la cognata non c'era, non l'ho vista. Ah, la cognata di Mario. Mi ha detto domani che Che festeggia, se c'è l'architetto. È morto il fratello. No, cosa so se è morto, no? Penso che sia vivo ancora. È vivo Mario, tuo fratello, sì. Speriamo anche per stanotte. E se stavolta crepa, cosa fai? Domani mattina inviti la bella a tutti. Sicuro. Grazie Giuseppe, tutto il quartiere che ubriacami. Sicuro. Aspetta che ti offre da bere lui. Domani. Sì, ha detto che offre da bere, capito. Quindi andiamo lì al circolo dove vanno i due coniugi, Giuseppe, quelli che vivono a scrocco. E paga tutto Mario, ha detto che paga. Grazie, Manzano. Guarda che Giuseppe beve whisky, Mario. Giuseppe beve whisky da Mazzotti. Che idea? Che cazzo parecchia? La parecchina non serve a niente. Dire la parecchina serve per sciacquarsi i coglioni a lui. Ah, la birra ti volevi invitare, lui la chiama parecchina, Giuseppe. Dire a sciacquarsi i coglioni con la parecchina. E parla bene, che c'è altra gente che sta ascoltando, sono anche bambini, Giuseppe. Sì, ciao. Non ho capito, ma perché non ti sciacqua la bocca? Ciao Tino, salutoni. Ciao Antone. Boh, c'è altra gente che ascolta, non è che ci siete solo voi in radio. Gaba, gaba. No, no, mi hai detto Giuseppe di sciacquati i cocumeri con quello, con la valecchina vera e propria. Lui beve birra che campa cent'anni. Ehi, a valecchina anche non sapevo voi. Ma chiamo tutti così, mi la verità. E lo grido. Avanti, Tino. No, va, sono TC Antonio. Fai, fai. Gava, gava, Tino. Hai cenato tutti, sì? Sì, ho voglia. E anche io adesso, la verità. Sono seduto mi a parlare così, passa l'ora. Ehi, va bene, va, continuate. Ciao, ciao. Figlia, ciao, buon ascolto. Avanti, Giuseppe. Giuseppe, è sparito. Avanti, Mario. Mario. Dimmi, Antonè. E dove sei sparito? Non ti sentivo più. No, adesso mi stavo seguendo un film. Ci sentiamo domani, dai. Stavi seguendo un film? Che film è? Film pornografico. Media 72, capito? E me lo sto seguendo. Ci sentiamo domani. D'accordo, ci sentiamo domani. Ciao Giuseppe. A domani. Chi là. Guarda nel tuo segnale un attimino. Questo qua, poi te lo cambio. C'hai? 5. Guarda questo, se ha cambiato qualcosa invece, a parte la radio. 9. Anzi, una cosa allucinante. A voi deve cambiata. Vabbè, era giusto una prova così. Che antenna è? Un'antenna come la mia? Quella verticale? Sì, la 510. No, è la diversa, io ho la X300. La 510 è diversa come antenna. E? Ora io l'ho smontata. L'ho preso la tua, l'ho smontata e ci ho messo questa qua. Oh no, questa vende, cazzo le vende. Quanto l'hai pagata, un bel? No, no, me l'hanno donata. Ma ce l'ho già un po', ce l'ho già un annetto. Solo che non ho avuto modo di piazzarla come doveva essere piazzata. E ieri ci siamo messi e l'abbiamo fatta. È molto, molto meglio questa che quella lì. L'altra è come quella che c'ho io verticale, che c'ha poco guadagno. È meglio. Una cosa questa. Vabbè. Vabbè, sta andando anche di più del dovuto questo, quindi. Beh, non c'entra niente, ma c'è un altro guadagno davvero, mi c'è anche, vabbè, l'altra. L'apparecchio è diverso, quello già l'ho capito. Guarda che io con la X300 non me ne... Vabbè, c'è un cavo che è completamente da cambiare, me lo devo cambiare perché è nero. La calza è nera, non vale... neanche col coltello riesci a farla diventare argentata, quindi ormai è bruciata, diciamo. E non mi sta rendendo nulla, infatti non sento più niente, no... anche se stazionale non me lo segna, però non c'ho più guadagno, c'è sensibilità. Guarda ora, ha cambiato 5. Hai capito? Adesso sì, ho visto. Azz. Si è notata la differenza. Tic tac tic. Ma è così, quelli suoi. Vabbè, comunque è un risolto, ecco, la farà là, piazzato, l'ho fatto allineare e tutto a posto. Meglio così, sono contento, almeno sei tranquillo anche tu, e non è nessun problema. Allora, no, vabbè, comunque era anche qualcosa perché mi era partita la scheda di internet, e quindi ho dovuto cambiare anche quella. La scheda internet qua è quella dell'aggancio telefonico? Ma del mio PC però. E in quello, mi sembra che ti avevo dato a te, in quello che ti avevo dato io per pezzi, non hai recuperato nulla? No, perché non erano compatibili con qualcosa, infatti l'ho fatto fare a un amico e insomma ho dovuto prendere un'altra. Ho capito, pensavo che avessi recuperato almeno qualcosa da lì. Sì, vabbè, se non ho recuperato niente, cioè se non si può recuperare nulla che non è compatibile. La Pazzillo intanto non ne fai nulla, in pratica, perché oramai sono usciti tutti Windows 10, Windows 8 e poi l'altro, il 7, e quindi non ne vale manco la pena. Il senso delle basi ormai non usa più nessuno a me. Non le vuole manco, più nessuno manco il regalo, perché ormai pezzi non ve ne so più, schede altrettanto, e quindi è tutta roba da buttare. Allora, devo mollare però qua, che c'ho una cosa in corso nel PC e devo finire. Ti ringrazio del controllo. E io di niente, non c'è problema. Quando vuoi, sono qui l'occhi. Ciao Antonio, ciao. Ciao Tino, ciao. Dimmi Mario. Certo. Va bene, sì, se vedi a quello. Allora, quello che ti ha detto, dice, prendi questo vino, ti fa fare i miracoli di notte. Sì, lo moriattico sembrava. Tutti i giorni, dimmi, tutte le mattine e tutte le sere. Passa qui, si pianta lì dalle 10:30, alle 11 del mattino, sino alle 2. La sera poi fa intorno alle 7. Fino alle 8, a quando chiude. Sempre puoi far vedere sempre la stessa cosa, come faceva su da Mario, sempre la stessa cosa, sempre di cinghiali, che ne pigliava 5, ne ha preso 6, che lui si mette in mezzo ai cose, il giorno che impallino da lui, vedrai che rido, cazzo, lo vedo con il braccio ingessato, e quando ti è passato un cinghiale. Ma tutti i giorni, io non ho fatto, tutti i giorni, se tu entri lì, lo senti parlare solo di caccia, basta, di caccia e buche, che hanno preso questi cinghiali, che gli fa vedere fotografie, e che secondo me non è stato di cervello. Il giorno guarda che vedrà che becca di qualche impallinata, di cinghiali non parla più, te lo dico io, che non riesce manco a cacciare. Il giorno che lo beccano, per sbaglio. E va al Alghero, va nella zona di Alghero, di Bosa, insieme agli amici suoi, poi la zona di Usilo anche. Io tutti questi cinghiali la verità non li ho visti in giro. No, ce l'ho spenta la televisore. Sono in cameretta con la luce a nero, mi sono presentato con la luce a nero che c'era in garage, te la ricordi? Quella grande me la sono messa in camera. Almeno posso lavorare a casa, va bene. Prima lavoravo alla cieca con questa luce gialla, non si vedeva nulla, non si può saldare. Era un casino, adesso almeno ci vedo, lavoro bene, per dire, fare qualche saldatura se mi capita da farla e scapparla. Ah, prima era un casino, devo stare a prendere la mira, ragazzi. No, il cane non c'è sopra il letto, è da Simona. Sì, da me per la stanotte adesso non prende il balletto. Verso le 11, mezzanotte viene, si mette a fianco, poi la mattina presto prende e si mette sopra la testa, mette il muso suo sopra il collo mio. L'abitudine è vedere data a voi, mi fa di bella la cosa ogni tanto. Questo già gli piace. L'unica cosa che veniva male con Scooby è a dargli il coso. Quello te ne mangiava le mani. Io lo credo. Io sono pronto, sempre pronto sono io. Tu avvisa per quello, già... Dico a Giuseppe. Dico liberati che andiamo dove vanno le coppiette. E beviamo gratis, tutta la mattina. E allora? Sì, appiati il vinello, il caffè. Così almeno sei a posto. Ti fai un giretto. Se sei sempre dentro casa chiuso, sì. Io, vedi, ogni volta che scendo giù a piedi, cioè, nottato. Poi vado dallo spesa, salgo con la spesa, come ti va di prima? Prima non ti ricordi che facevo mattina e sera, sempre tutti i giorni, lo stesso peso. Che a volte ne arrivavo cazzo morto. Tu immaginati quando andava a mamma a fargliela, che non c'ero io, come ne saliva, cazzo, la lingua fuori a 70 anni. No, io che per Dio già li faccio abbastanza larghi i passi, anzi. Ci metto anche, ci metto 10 minuti a scendere da qui a casa tua. Poi ce ne metto altre 5 e arrivare giù, nemmeno, dello spi, poi la salita dello spi, col peso naturalmente, ogni tanto prendo mi fermo, perché avere due buste piene a peso molto, pesa, a parte quelle buste dello spi sono lunghe, e quindi tocca all'interno, devi sollevarle tu. Chi? Ah, il coso, il TMR. Come mai si scarica così fatta questa batteria? Ah, per quello. Sì, va bene, ok. Sentiamo domani mattina allora. A 380.